Ad alta voce, edizione 20 anni. Giovanni Ludeno legge Acido lattico di Saverio Fattori. Seconda puntata. Collaboratori, è con grande piacere e con un pizzico di commozione che mi accingo ad assumere l'incarico di presidente della Federazione di Atletica Leggera, lo sport che ho interpretato prima da atleta, poi da tecnico, infine da dirigente. Grazie al vostro voto mi ritrovo a capo dello sport che è stato tutta la mia vita e che intendo servire fino a quando avrò forza. Questa lettera non apparirà su nessuna rivista federale o su giornali sportivi. Questa lettera è confidenziale, indirizzata a tecnici che stimo, pochi e fidati. Alcuni di voi li ho conosciuti personalmente, prima sulle piste come rispettati e leali avversari, poi ai bordi, nelle eroiche vesti di tecnici. La mano destra a serrare un cronometro, lo sguardo a intercettare lo stato di grazia dell'ultima promessa che non manterrà la progressione nei risultati, dalle categorie giovanili a quell'assoluto. Conosco il vostro senso di impotenza quando l'unico ragazzino con la caviglia reattiva sceglie il calcio. Ci troviamo a gestire cambiamenti che fatichiamo a interpretare. Spesso il nostro lavoro si disperde, non si concretizza. I giovani sembrano non tollerare sacrifici e disciplina. Ci appaiono fragili, arroganti e non riconoscono come valore il fatto di indossare la maglia azzurra, di onorarla e viverla come consacrazione di un'impresa che vale una vita. Sembrano ben altri oggi gli obiettivi che inseguono i nostri ragazzi. Si ricerca la massima resa con il minimo sforzo, l'antitesi dei valori fondamentali che si vivono praticando l'atletica. I giovani dei continenti poveri, non ancora inquinati da derive morali, ansiosi di guadagni derivanti dallo sport di alto livello, ci appaiono imbattibili. Mi pongo con grande ammirazione e stima nei loro riguardi. Solo abbiamo bisogno di atleti bianchi che possano competere con gli africani nelle gare di mezzo fondo o con neri americani nelle gare di velocità. La gente non riesce a memorizzare nomi e facce degli africani. Ammazzano tutte le gare e non lasciano ricordo di sé. Audita l'impicchiata, sponsor in fuga ormai da anni. Un dirigente francese, nel corso di una conferenza stampa prima dei mondiali di cross a Saint-Étienne, ha dichiarato a microfoni spenti che forse non è più il caso di sprecare tante energie nazionali per un campionato africano. Imbarazzo in sala. La verità è spesso imbarazzante. Eppure il potenziale non è completamente disperso. Nonostante tutto, l'atletica nel nostro paese regge il confronto con gli altri sport poveri mantenendo un discreto 7,8% di share, con un'audience media complessiva di 643.605 spettatori. L'automobilismo è una stella cometa. Il calcio e il ciclismo soffocano tutti gli spazi. 191 ore di pallone vario, 159 sui pedali. Ma il confronto con gli altri sport è assolutamente positivo. Basket 5,6%, volley 5,3%, nuoto 6,5%. Sono dati falsati a nostro favore dal fatto che si riferiscono all'anno olimpico, dove l'atletica ancora regna. La realtà è un pizzico più amara. E la constateremo con i dati dell'anno in corso, dopo una rassegna iridata che per i nostri colori nazionali ha decretato una brusca caduta dei risultati. Invece vi posso anticipare che la Provisit ha annunciato un taglio della sponsorizzazione del 30%. Dobbiamo alzare le quotazioni del prodotto che vendiamo, l'atletica bianca. Spero non prendiate per cinismo il quadro che vi sto mostrando. L'attrezzo per il salto con l'asta costa circa 2.500 euro. Non possiamo chiedere alle famiglie di assumersi oneri economici del genere. Come federazione quest'anno non avremo risorse economiche per provvedere a coprire questa spesa e non possiamo far saltare i nostri ragazzi con le canne di bambù. Purtroppo è solo un esempio. Non voglio essere io a seppellire definitivamente il movimento, a prendermi tutta la responsabilità. Sotto la mia direzione torneranno i risultati e l'interesse. È una promessa. Sono stato un buon atleta. Sono soprattutto un tecnico, non un politico. Ma ho bisogno che anche voi crediate in un miracolo che è alla nostra portata. Ci saranno decisioni importanti, scelte di campo, responsabilità da assumersi. Mi riprometto di tornare alle glorie degli anni Ottanta che ricorderete come un vero e proprio rinascimento. È con molti rimpianti che oggi festeggiate per il 22° posto ai campionati mondiali di cross, categoria juniores femminile. Quest'anno è stato il miglior risultato della spedizione in Francia, non aggiungo altro. Difficilmente il nome di questa ragazza lo troveremo nella notizia di apertura di un telegiornale futuro. Eppure dobbiamo aiutarla, molto, moltissimo, per farle recuperare 4 minuti che ha perso dall'Etiope che ha vinto. È emersa nelle gare regionali, poi nel criterium nazionale. Per lei era già un sogno essere presente a Saint-Étienne. Rimarrà nel suo passato un ricordo che è già memoria, racconta i nipotini. Noi dobbiamo crearle invece un futuro luminoso, senza umiltà. Farle comprendere che il Mondiale Juniores non è l'apice della sua carriera, è solo il primo mattoncino. Alcuni di voi stanno lavorando con atleti stranieri. Intendiamoci, non me ne faccio una colpa, era l'unico modo per sopravvivere economicamente. Ma con una programmazione seria riusciremo a riportare atleti italiani di razza bianca ai vertici mondiali. Non è razzismo, ma la gente, i giornalisti, gli sponsor ci stanno silenziosamente urlando questo, da anni. Atleti bianchi in grado di competere e battere atleti africani nel mezzofondo veloce, prolungato, nel cross come nella maratona. O fra qualche anno spariremo anche dai tre filetti dei quotidiani sportivi, a giocarcela con il rally o con il rugby, sui canali satellitari. Ho intenzione di tagliare il personale tecnico, non preoccupatevi. Naturalmente le persone a cui ho indirizzato questa lettera non sono in questo triste elenco. Tagliare per potenziare. No, non è paradossale. Vi chiedo solo un po' di fiducia. Vi chiedo di condividere un sogno. Cordiali saluti, il presidente. Resistenza alla tacita. Capacità della muscolatura di eseguire elevati impegni di forza in esecuzione veloce per un tempo di 20-30 secondi, ripetendoli con pause brevi fino all'accumulo di elevata quantità di acidosi muscolare. La resistenza alla velocità è la capacità della muscolatura di sopportare ripetuti impegni muscolari massimali senza decremento del tempo di impiego a ricoprire lo stesso spazio. VAM, capacità dell'organismo di mantenere un'intensità elevata di lavoro per un tempo che va dai 6 agli 8 minuti, oltre il quale l'accumulo di acidità muscolare ne impedisce il prosieguo alla stessa intensità. L'acido lattico è un sottoprodotto del metabolismo che, superando la membrana della fibra muscolare, si riversa nel sangue. Un piccolo avvelenamento che mina le prestazioni intossicando l'organismo, soffocandolo. La presenza di acido lattico in alta concentrazione è sintomo di un organismo efficiente che genera energia. Nello spogliatoio siamo rimasti soli, Giulio ed io. Dalla porta centrale della piccola costruzione in muratura escono un paio di velociste lesbiche senza degnarci di un saluto. Ma guarda ste due, ma dobbiamo davvero toccare il fondo? Sono quelle della 4x400. Giulio pare sinceramente indignato. Mi limito ad assentire fissando il pavimento. Il rilascio di endorfine post allenamento mi sigilla il cervello nel domo pack trasparente. Giulio, io mi sto facendo il culo. I programmi di Roberto sono estenuanti e io non mi tiro indietro. Finisco con i crampi. Insomma, non basta. Sono sempre stato il più bravo, fin dalla categoria cadetti. Niente discoteca, distrazioni, monogamia, alimentazione rigorosa. Ma adesso non c'è storia. Gli africani sono animali. E noi possiamo batterli solo col cervello. Basta con ste cazzate del cervello, delle palle, della tattica. Basta. Parli come quel coglione di Roberto. Possiamo batterli solo con la chimica, farmaceutica. Grande Giulio, siamo in sintonia. Come ci muoviamo? Quella di internet è una cazzata. Ci sono siti porno dove puoi cliccare su foto di prodotti farmaceutici per l'acquisto con carta di credito. Ma non sono i canali giusti. E poi la Guardia di Finanza si sta attrezzando. Siamo tutti controllatissimi. meglio stare alla larga anche dai gestori di palestre per culturisti minchioni. A volte hanno prodotti buoni anche per gli sport aerobici, ma alcuni sono indagati. Presto qualche maratoneta rimarrà nella rete delle intercettazioni. Leggi i giornali, ricordati delle mie parole e vedrai se non sono un profeta. Comunque i tabulati non bastano. Le notizie possono trapelare, ma se l'atleta non risulta positivo all'antidoping, non scatta nessuna squalifica. E gli atleti in questo paese sono peggio dei politici. Col cazzo che si autosospendono, anche se l'evidenza li schiaccia. Quindi, quello che è sicuro è che i cani sciolti vengono beccati. Meglio agire con la benedizione federale. Niente alchimisti improvvisati, buoni per triatleti e culturisti. In federazione qualcosa si sta muovendo. Si prevede che nei prossimi anni la flessione del calcio sarà inevitabile. Si apriranno prospettive, anche economiche. Dobbiamo essere pronti. Non possiamo farci fottere da roba tipo basket o altri sport per subnormali. Il nuoto ci sta superando. Ma se torneranno le medaglie nell'atletica, la gente si renderà di nuovo conto che seguire gli spruzzi e la schiuma di 8 corsie è una noia. Odio il nuoto. I nuotatori non si distinguono uno dall'altro nemmeno all'arrivo, nemmeno quando si tolgono la calottina. Sei arrivato a 28,45 nei 10.000 con il solo aiuto di integratori per bambini inappetenti. Con un po' di benzina buona, vedrai. Sei davvero uno degli atleti su cui si punta per Pechino. E di Gaudenti che mi dici? Domenica non ho corso al risparmio. Il 10.000 era misurato bene. Quelli che avevano l'orologio satellitare hanno confermato. Ho corso a 2,54. E lui, che pare un altro, mi è rimasto incollato al culo. L'ho battuto solo in volata. Dico che è dimagrito molto. Dico che va avanti e indietro da un medico di Sorate sulla Verda, il martedì e il giovedì alle 19.30. Sono queste le cose che non sopporto. Per adesso teniamoci alla larga da questi stregoni. Sulla panca dello spogliatoio si materializza una scatolina. Questa è una piccola cosa. Monores. Un broncodilatatore molto blando. Prendi 3 pastiglie mezz'ora prima dei lavori di resistenza e potenza lattacida. Poi altre 2 scatoline. Queste sono cose meno piccole. Dianabol. Inizia con una compressa ogni 2 giorni. E questo è Decadurabolin. Stessa cosa. Prendi 2 farmaci a giorni alternati. Nessuna delle 3 scatole contiene il foglietto illustrativo. Ho fatto la vocina stridula infantile. Hanno controindicazioni? Che domanda? Certo che sì. Cancro, peste, AIDS, malattie venerie, le peggiori. Ma tutto in forma leggera. Scherzi a parte, è una curetta molto leggera. Non è una posologia da ciclisti o culturisti. Ho digitato in un motore di ricerca i nomi di alcuni ragazzi che primeggiavano nelle liste regionali di inizio anni 90. Ho scorso le loro schede biografiche nelle riviste federali del tempo, presentati come adolescenti modello, bravi, studiosi. Rispondevano alle solite domande, dicevano tutti più o meno le stesse cose. Affermavano che l'atletica la stavano vivendo come un gioco. Gli allenatori assicuravano un radioso futuro. I cronisti si recavano in campetti di provincia a incontrare ragazzini che avevano ottenuto successi a livello regionale. Alcuni baby atleti sembravano avere già una forte determinazione. Sono botta e risposta standard. Riproducono identiche dinamiche. Questo scambio potrei essermelo inventato come potrei averlo ricopiato fedelmente. Cosa sei disposta a sacrificare per diventare domani una campionessa? Tutto. Ma soprattutto la maggior parte del tempo libero, quello con gli amici, che in futuro vorrei passare allenandomi per ottenere ottimi risultati. Hai appena 14 anni e sei già nella rappresentativa regionale. È proprio come te l'aspettavi questo mondo dell'atletica? Riesco ancora a divertirmi. Il mio allenatore non mi fa pesare troppo le responsabilità. Lo scorso anno una brutta influenza mi ha tolto la gioia di poter partecipare al raduno regionale. Quest'anno ci sarò. Quale insegnamento è venuto dal tuo allenatore? Da lui ho imparato molte cose. La più importante è che non devo scoraggiarmi mai, nemmeno davanti a una sconfitta. Come ti immagini tra 10 anni? Spero di essere la stessa di oggi, ma di aver ottenuto molte più soddisfazioni. Non solo in ambito sportivo, naturalmente. Devo concentrarmi anche sullo studio. Il cronista mette a fuoco il punto di vertigine di questa giovane vita con una domanda per nulla banale come potrebbe sembrare. Come ti immagini tra 10 anni? È un interrogativo pesante. Se la ragazza ne avesse avuto coscienza, sarebbe scappata in lacrime, isterica, impaurita. E il cronista avrebbe lasciato la domanda nel taccuino. Il tempo è merce deperibile. La ragazzina come può averne percezione? Il fisico in questa fase della vita esprime il potenziale massimo. Il cervello fatica a gestire con parsimonia ed efficienza le esplosioni ormonali. Si genera dispersione. È come se le risposte troppo serene e sicure della ragazza ci mettessero a disagio. Vorremmo viaggiare nel tempo e metterla in guardia. Occhio, ragazzina, non è tutto maggio. Non è facile come sembra. Sbagliare le prime mosse adesso è facile. Ti sarebbe fatale. Non buttarti via. La pallavolo in spiaggia è un gioco. Il calcio saponato è un gioco. La PlayStation è un gioco. L'atletica è altro. Stai in campana. Presta attenzione alle tue sensazioni, ai miglioramenti. Non confondere serenità e superficialità. Inutile, folle, controproducente ogni intervento esterno. Ci guarderebbe ancora una volta impaurita e scapperebbe via. Nulla che valga la pena di imparare può essere insegnato, come sempre. Poche scelte nella vita sono determinanti e devono essere prese nell'età più indeterminata, dettate dalla casualità più assoluta. Da qualche parte è rimasta impigliata. Forse una facoltà universitaria troppo esigente, un fidanzato oppressivo. A distanza di 10 anni non ci sono riferimenti ad altri suoi risultati. L'atletica è stata solo una piccola trascurabile parentesi. Forse non ha nemmeno tenuto tra le cose care questa rivista. Sarebbe folle pensare di rintracciarla per consegnargli il numero di Atletica Sprint del settembre 1993. Folle chiederle conto. Nel servizio c'è una foto. Coda di cavallo, gambette toniche leggermente divaricate e braccia lungo il corpo. Guarda verso l'obiettivo con la bocca aperta. La ragazza praticava velocità con un primato personale da 10,5 sugli 80 metri e salto in lungo dove era arrivata a 4,54. Le due specialità sono spesso frequentate in associazione. Chi corre forte salta lontano. Oggi la maggior parte dei ragazzi descritti nella rubrica Spazio Giovani risulta dispersa. Quasi nessuno è arrivato a risultati di rilievo internazionale. Nel migliore dei casi, dignitose carriere a livello nazionale al riparo dei gruppi sportivi militari. Il ceppo etnico di gente come Mennè e Simeoni è esaurito, estinto. È come se dagli anni 90 le generazioni avessero perso forza, nonostante il miglioramento della qualità della vita, come se avessero perso il senso del tempo necessario a creare qualcosa di definitivo e perfetto. Ai primi ostacoli si sono disgregati, non hanno retto alle piccole delusioni dei cambi di categoria, agli infortuni dovuti all'aumento dei carichi di lavoro, ai raduni collegiali. Non hanno voluto recidere legami di amicizia, amorosi o familiari. Sul piatto hanno lasciato pochi resti e hanno mollato. Sono diventati preparatori atletici di squadre di pallavolo, cicloturisti, culturisti, geometri, bancari, tossicodipendenti. Si sono dispersi, distratti da mille variabili. Allergici alla fatica sorda delle sedute in pista, alle escursioni morali che precedono la competizione individuale, come se l'evoluzione avesse portato a un abbassamento della soglia critica della sofferenza. Le generazioni che hanno giocato per la sopravvivenza, che hanno conosciuto la fame e la guerra, si allontanano nel tempo. Sono remote ere geologiche che non hanno lasciato traccia nella genia. Pochi decenni hanno scavato baratri insondabili. Nessun passaggio di testimone è stato possibile. Nessuna esperienza può essere resa. Paola Poggi inizia con il salto in alto. Durante una gara scolastica migliora il suo personale di 18 centimetri. Passa da 1,35 a 1,53. In quella competizione, anche a distanza di tempo, non mi sono resa conto di come possa essere successo. Come possa essere migliorata così tanto in una sola gara, nonostante la tecnica fosse istintiva. Quel giorno il mio allenatore decise che bisognava fare le cose sul serio. Gli eventi scivolano facili nel verso giusto, senza fatica, senza alcuna sofferenza. I giudici alzano i ritti e posizionano l'asticella sempre più in alto. Lei apre di poco il sorriso, poi ritrova la concentrazione. Con lo sguardo cerca il tecnico che gesticola mimando lo stacco e la fase di svincolo. Emette suoni onomatopeici. Ta ta ta ta ta ta ta ta. Op. Le avversarie hanno già indossato la tuta e seguono i suoi tentativi a braccia conserte. Nessuna invidia, sincera ammirazione e simpatia. Una compagna d'istituto, dopo ogni salto positivo, abbraccia Paola. Il cronista la descrive come timida fuori dal campo, esplosiva in pista. È un ambiente che mi affascina, che continua a piacermi. Vi posso assicurare che è una sensazione molto piacevole. C'è leggerezza, nessuna ansia da prestazione, nessun allenatore disumano, genitori troppo ossessivi che devono riscattare i propri fallimenti sulla pelle dei figli. Lo ammetto, un giorno mi piacerebbe trovare un lavoro all'interno di una banca. Sogni professionali modesti, nessun sintomo di giovanilismo irrequieto. Frequenterà un istituto tecnico in provincia e arriverà alla maturità senza problemi. Sarà gentile allo sportello con il pensionato che fatica a interpretare le voci dell'estratto conto. La sua carriera all'interno della cassa di risparmio sarà una progressione sicura e lenta, ma inarrestabile. Nessun balzo improvviso di 18 centimetri, nessuna luce abbagliante. Nel curriculum alla voce interessi metterà atletica leggera, praticata negli anni giovanili. Nessuna ombra aleggia su questo angelo della porta accanto. E vabbè, mi piace la Nutella, la mangerei sempre, a barattoli, mai prima di una gara. Una dolce trasgressione che ce la rende ancora più simpatica. Fatemi allenare, le Olimpiadi del 2000 mi stanno aspettando. Giovanni Ludeno ha letto Acido Lattico di Saverio Fattori, a cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce, edizione 20 anni, è un programma Rai Radio 3.